l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddei e ben ritrovati all'altra Europa, come ogni settimana qui per raccontare l'Europa delle persone, l'Europa delle storie, delle opportunità e delle possibilità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, euronetplus.eu, il portale che vi invito a visitare oltre al nostro radio24.it, dove trovate tutta la sezione dedicata alle notizie europee oppure ai contributi extra del nostro programma L'altra Europa. E ancora i social network Twitter e Facebook @euronetplusr24, quello istituzionale, oppure il mio personale @FedericoTaddia. Ok, avete tutte le coordinate. Si parte ogni settimana un viaggio. Oggi tanti ospiti, parleremo di volontariato, parleremo della giornata dei disabili, parleremo di bambini da un punto di vista molto particolare. Vai, si parte! Now in its seventh year, the EU Access City Award was launched in 2010 to raise awareness of disability and promote accessibility initiatives in European cities. The award is open to all cities within the EU with more than 50,000 inhabitants. Since 2010, 274 cities have entered the competition. A total of 35. Il 3 dicembre, oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità, giornata europea. C'è la dichiarazione della commissaria Thyssen che sottolinea quanto appunto le persone con disabilità e i loro rappresentanti siano stati un continuo motore di cambiamento politico in tutto il mondo e in particolare in Europa, una strada che sta continuando e che l'Europa sottolinea con questo premio. Sono gli Access City Award e si è tenuta la premiazione il 29 novembre. Sono le città al centro, le città e quelle che sono le politiche per vincere le barriere sia architettoniche che mentali, città che siano veramente città a misura di tutti. Il primo posto quest'anno è andato alla città britannica di Chester, poi ancora Rotterdam, Jurmala, Lugo in Spagna, e c'è anche una menzione speciale per una città italiana. La città è Alessandria ed è stata menzionata per l'impegno nell'accessibilità in circostanze finanziarie sfavorevoli. Per capire quali sono state le iniziative messe in atto abbiamo con noi Mauro Cattaneo, assessore alla coesione sociale del comune di Alessandria. Buongiorno Cattaneo. Buongiorno. Beh, credo una menzione accolta con soddisfazione. Certo, non capita tutti i giorni di andare a Bruxelles e ricevere un premio. Un premio particolare, tra l'altro. E, quali sono state le iniziative che avete ideato? Ma le iniziative, devo dire, sono state magari tante. La cosa che importa, e penso che sia stata la vera motivazione per cui siamo stati prescelti, è la capacità di fare rete, la capacità dell'ente pubblico di dotarsi di strutture operative organizzative come quelle del Disability Manager. Poi probabilmente abbiamo avuto anche particolare fortuna a trovare tra i dipendenti del comune una persona come l'architetto Paolo Testa, che ha ricevuto questo incarico e ha avuto la competenza, ma soprattutto la sensibilità anche per impegnarsi su questo tema. E appunto, non a caso la motivazione è stata quella di essere selezionati per l'impegno sul tema di disabilità in circostanze, diciamo, in challenging times, come era scritto sul diploma che ci è stato dato, in momenti di difficoltà. Per cui abbiamo avuto la capacità di fare rete con il comune al centro, con questa struttura del Disability Manager al centro, fra le varie altre strutture pubbliche, le associazioni di volontariato, le associazioni dei familiari, e accrescere quindi la capacità di collaborazione, di mettersi insieme e di produrre dei risultati positivi che poi si possono produrre anche senza, magari a volte anche senza del tutto interventi economici. Però infatti la domanda è questa: favorire l'inclusione sociale costa? Allora, è un po' facile per me che mi sono trovato a fare l'assessore in un comune che stava gestendo un dissesto, che è il corrispettivo del fallimento economico di un'azienda, dire che quando hai i soldi è meglio, ovviamente, se hai delle capacità di investimento è utile. Dopodiché la capacità di, relazionale, di creare della collaborazione tra i soggetti è altrettanto e si vede forse anche un po' più importante di quella di avere a disposizione dei fondi. Noi avevamo a disposizione solo questa, evidentemente ce la siamo giocata bene e a Bruxelles se ne sono accorti. Accesscityaward.eu è il portale per conoscere anche i progetti messi in atto dalle altre città. Leggevo per esempio di Chester, che di fatto ha vinto per gli interventi che hanno reso il patrimonio storico e culturale accessibile alle persone con disabilità e non solo, nel senso che è stata veramente un'apertura globale, quindi interventi volti a favorire la fruizione culturale. E ho trovato invece, tornando ad Alessandria, appunto una particolare sottolineatura su questa costruzione di parchi giochi inclusivi, che insomma anche questi sono fondamentali, no? Uno non ci pensa, sono quelle sfumature che invece fanno davvero la differenza. Sì, fanno la differenza e fanno cultura. Ad esempio, nel filmato che spero si potrà visionare anche tramite il vostro sito, è visibile l'orto botanico del comune d'Alessandria, una di quelle strutture in cui, grazie all'intervento totalmente volontario ad esempio dei ragazzi che fanno un servizio civile in quella struttura, ma sia delle associazioni e ancor più, diciamo, perché lì c'è un'altra persona che ci ha messo l'anima e tutto il resto, come il responsabile comunale dell'orto botanico, sono state create delle strutture apposite per rendere fruibili alle persone con le varie disabilità di cui sono portatori quella struttura. Addirittura mi è stato spiegato proprio qualche giorno fa, una delle ultime novità, un piccolo orto rialzato che può essere gestito da ragazzi che hanno problemi di autismo. E sono buone pratiche, appunto, da rendere comunicabili e replicabili, questo è anche quello che vuole la Commissione Europea. Un grazie all'assessore Cattaneo, complimenti, buon lavoro. Grazie a voi. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Settimana europea delle competenze professionali. Sei affascinato dal mondo del lavoro? Sei alla ricerca di più dettagli su un mestiere che vorresti fare? Oppure, viceversa, ti piacerebbe condividere tutti i segreti della tua professione? A Bruxelles e in tutta Europa, dal 5 al 9 dicembre, arriva la prima settimana europea delle competenze professionali. Il titolo di questa edizione sarà Scopri il tuo talento e avrà lo scopo di migliorare l'immagine dell'istruzione e della formazione professionale in Europa, mostrando ai partecipanti le qualità e l'eccellenza della vasta gamma di opportunità che il nostro continente offre. Conferenze, workshop, eventi in tutta Europa sul tema delle competenze professionali animeranno la settimana e accoglieranno anche chiunque volesse presentare e condividere la propria attività. Per informazioni, cerca Settimana Europea delle Competenze Professionali sul sito della Commissione Europea, europa.eu. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta L'altra Europa. I can change the world with my own. Two hands make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own Europa two hands. E volontariato, Europa e servizio. Ne parliamo in questa parte di puntata e lo facciamo prendendo spunto da due importanti appuntamenti. Il primo si è appena concluso ed è l'assegnazione del 23esimo premio del volontariato internazionale FOXIV 2016, premio a cui si è affiancato per il secondo anno il premio del giovane volontario europeo dedicato al valore etico di questo strumento di cittadinanza, di intercultura, di impegno sociale, di inclusione, quindi parole che ritornano. Premio Giovane Volontario Europeo che è stato assegnato a Chiara Passatore, vincitrice, quindi, che abbiamo il piacere e l'onore di avere qua con noi. Ciao Chiara, buon sabato. Ciao. Ciao anche a voi. Allora, hai appunto ricevuto questo premio in seguito a una tua esperienza. Cosa hai fatto? Allora, io sono partita in servizio civile. Sì. Con un'associazione che si chiama IBOS, che sta sotto FOXIV. Certo. E che ha sede a Ferrara, e sono andata in un centro diurno per bambini. Fondamentalmente abbiamo con un'altra ragazza fatto le educatrici in questo posto. Dove? A Panciu, in è Romania. Una cittadina in Romania, esatto, in una cittadina nella Moldavia romena. Per un periodo di che durata? Il servizio civile si svolge per la durata di un anno. Mm-hmm. Poi siamo tornate un mese dopo il rientro, un po' per nostalgia, un po' perché dovevamo finire cose da fare. Chiara, tu hai 26 anni, hai una laurea appunto che hai conseguito all'Università degli Studi di Roma 3 in Scienze della Formazione. Cosa ti ha spinto a dedicare un anno della tua vita a questa esperienza? Beh, innanzitutto stavo cercando lavoro e questa come occasione lavorativa è molto buona, un'occasione che dà lo stato per fare esperienza, per partire, e se si ha la voglia e l'energia per entrare in un contesto nuovo è un'ottima occasione. Quindi fondamentalmente perché cercavo un'esperienza lavorativa in un progetto strutturato e lì l'ho trovata. Mm-hmm. E sei tornata a casa... Con che bagaglio? Sono tornata a casa molto più sicura di me, sicuramente. Sono tornata con tutto quello che mi ha insegnato il centro Pinocchio, in più, che è il mio lavoro fondamentale, perché io lavoro nel sociale, o comunque quella è l'aspirazione, e gli immigrati romeni sono tanti e il bisogno di comunicare tanto, nonostante imparino velocemente la lingua. Però comunque era un modo per entrare un po' più in contatto con realtà anche della mia città, molto, molto in crescita. Certo. Complimenti per questo premio, insomma, che è un riconoscimento, come sempre diciamo, no? Tu hai avuto un premio individuale, però è anche un premio collettivo, credo, no? Che idealmente sì, da dividere e condividere con tanti giovani sì, che come te hanno vissuto questa esperienza. È più un premio al progetto che alla mia persona, perché se il mio servizio civile è andato bene è stato grazie alla solidezza del progetto, alle persone che hanno fatto con me il corso, agli educatori rumeni che mi hanno accompagnato e che ogni giorno ancora sono lì a tenere in piedi il centro, quindi sicuramente è un premio condiviso. Grazie Chiara, bocca al lupo, ciao. Grazie, ciao. E se questo è stato appunto il primo avvenimento, si è concluso da pochi minuti, quest'anno l'abbiamo ricordato più volte, è il ventennale dello SVE, quindi del Servizio Volontario Europeo, ventennale che verrà celebrato con una giornata particolare proprio il 7 dicembre, un po' la chiusura dei festeggiamenti, una giornata promossa dall'Agenzia Nazionale Giovani a Roma, e ne parliamo con Silvia Strada dell'agenzia stessa. Ciao Silvia, ben ritrovata. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora Silvia, 7 dicembre si chiude questo anno che è stato un anno particolare perché è il ventennale del Servizio Volontario Europeo, l'avete raccontato, meglio lo avete fatto raccontare perché i tanti eventi erano proprio centrati e focalizzati a dar voce a chi ha fatto questa esperienza. Cosa succederà il 7? Allora, il 7 dicembre al Maxi alle 10.30 ci sarà una giornata interamente dedicata sia a quello che è accaduto durante l'anno sui festeggiamenti del dei 20 anni del Servizio Volontario Europeo, perché sono state tantissime le associazioni attive sul territorio che hanno fatto tante iniziative locali, quindi vogliamo anche valorizzare quello che è stato il loro impegno a livello locale. Sono state oltre 100 le iniziative fatte e vogliamo dare spazio soprattutto alle storie dei ragazzi che hanno fatto questo tipo di esperienza, rientrati anche da poco, raccontando quindi questi 20 anni e il valore di quello che è poi il volontariato europeo, per dare un messaggio positivo e anche di speranza alle nuove generazioni, perché rappresenta un'opportunità per i giovani dal punto di vista di crescita personale, professionale, umana e sociale. Quindi vogliamo raccontarlo con i protagonisti, per coinvolgere sempre più giovani a partire come volontari europei. Tra l'altro uno dei protagonisti è qui con noi, fra pochissimo ve lo presento. Silvia, però tu hai anche studiato un po' il fenomeno del volontariato europeo, perché avendo preparato questa giornata e non solo, poi con l'agenzia lo coordinate, c'è più consapevolezza in questi 20 anni? Cos'è cambiato? Cosa significa oggi fare volontariato europeo? Cosa hai percepito? Guarda, noi abbiamo lavorato anche per dare un senso poi, no? E sostanza a quella che sarà la giornata. Durante l'anno anche una pubblicazione, interrogando proprio i giovani che in questi 20 anni hanno fatto il Servizio Volontario Europeo. C'è un filo conduttore tra tutti che, devo dire, rispondono sempre con che è l'esperienza che gli ha cambiato la vita, moltissimi lo dicono, e soprattutto l'88% dei ragazzi che ha partecipato a questa indagine dichiara proprio che è stato utile per il proprio sviluppo personale, per sviluppare le proprie competenze e capacità, non tanto che emerge soprattutto, insomma, anche testando con mano le nuove generazioni per il lavoro che facciamo, è che moltissimi giovani hanno voglia di mettersi in gioco e di mettersi al servizio degli altri, soprattutto per favorire l'inclusione e la partecipazione di giovani con minori opportunità. Quindi secondo me è un dato che andrebbe valorizzato nel tempo, perché troppo spesso si parla delle nuove generazioni con un accento negativo, mentre invece noi testiamo con mano quello che è la positività e l'energia di questi ragazzi che poi scelgono di fare questo tipo di esperienza molto profonda e molto impegnativa, perché ti impegna dai 2 ai 12 mesi all'estero, quindi insomma è una scelta che va fatta con grande consapevolezza e determinante anche sotto certi aspetti per la tua crescita anche caratteriale e poi formativa e professionale da un lato. E chiediamo anche a Samuele Merlini, se questa esperienza gli ha cambiato la vita, lui che ha fatto servizio volontario, se non erro, direttamente in Medioevo. Ciao Samuele. Ciao Federico, sì, ciao. Ho fatto il mio progetto nel 1406. Complimenti, quindi altro che 20 anni. Allora Samuele, tu sei stato in Danimarca, quanti mesi? Sì. 6 mesi, okay, da maggio a novembre. Ok, e di cosa ti sei occupato? Diciamo che per questi 6 mesi, per 5 giorni a settimana, facevo parte di questo centro medievale, che era poi un museo vivente nel quale alcuni volontari e alcuni dipendenti rievocavano la vita di un piccolo paesino danese proprio del 1406. Uh-huh. E tu ti sei trovato a interpretare uno di questi ruoli? Sì, io ero l'apprendista di un falegname, avevo vestiti dell'epoca, di pantaloni abbastanza strani, vestiti abbastanza particolari. Io interpretavo questo apprendista di questo falegname, quindi l'aiutavo nelle attività quotidiane, tipo nella costruzione di qualcosa. E la gente poteva vedere come la gente anche costruiva le case, produceva utensili in questo periodo. Mm-hmm. È un'esperienza che ti ha cambiato la vita? Forse io, perché sono tornato da poco, forse ci vuole ancora un po' di tempo per capire se mi ha veramente cambiato la vita o no. Sicuramente è stata un'esperienza edificante e arricchente che mi ha cambiato, questo sicuramente. La vita aspetterei ancora un po' a dirlo, però è stata un'esperienza molto positiva e forte. Insomma, hai acquisito saggezza, questa già la tua risposta comunque evidenzia questo aspetto, sicuramente. Un grazie a Samuele Merlini e un grazie anche a Silvia Strada. Allora Silvia, ricordiamo, agenziagiovani.it, per conoscere l'intero programma, il 7 dicembre al Maxi di Roma, da che ora? Dalle 10.30, aspettiamo quanti vogliano conoscere dal vivo questo universo e entrare in contatto con le storie dei ragazzi e insomma arricchirsi anche delle storie degli altri, insomma. Assolutamente, grazie davvero, ciao Silvia, buon compleanno a te e allo Sven. Grazie, ciao. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi torniamo subito dopo con l'altra Europa. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia, mi trovate su Twitter o su Facebook e lì potete anche recuperare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Mettiamo al centro i bambini in questa parte di puntata, lo facciamo con due progetti, due iniziative molto diverse tra di loro, ma insomma la finalità è molto assonante. Diamo il benvenuto a Valeria Carlini, responsabile ufficio stampa e comunicazione del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Buon sabato Carlini. Buongiorno a tutti voi. Allora arriviamo con un paio di settimane di ritardo, però ci tenevamo ugualmente a parlare di questa iniziativa. Si parla di bambini, si parla di piccoli, si parla di rifugiati e si parla di una richiesta molto forte che avete portato al Parlamento europeo e al Consiglio d'Europa. Qual è questa richiesta? Insieme a un network molto ampio di organizzazioni in Europa che si occupano di rifugiati e di apolidi, abbiamo chiesto ai paesi europei un vero impegno affinché riformino le proprie legislazioni per fare in modo che tutti i bambini che nascono in Europa abbiano diritto ad una nazionalità. Ci troviamo in una situazione purtroppo ancora assurda, in cui migliaia di bambini in Europa, quindi parliamo del mondo più avanzato dal punto di vista dello Stato dei diritti, ancora non hanno diritto a nessuna nazionalità, il che vuol dire non avere diritto a studiare, non avere diritto ad un'assistenza sanitaria, non avere diritto ad un futuro, e per noi questo è vergognoso. E abbiamo chiesto che tutti gli Stati in Europa, quindi i 47 che sono la parte che fanno parte del Consiglio d'Europa, aderiscano a quelle convenzioni che le Nazioni Unite ci ha dato per cancellare il fenomeno della apolidia. Non solo, abbiamo chiesto che si muovano affinché tutti quelli che sono le lacune nelle prassi e nelle leggi che anche al momento sono esistenti in molti paesi, penso per esempio all'Italia, si cancellino e rendano effettivamente possibile che ogni bambino che nasca sul suolo europeo abbia si veda riconoscere il diritto ad essere cittadino di un paese. I flussi migratori di questi mesi hanno sicuramente amplificato anche questo bisogno, questa richiesta. Un bambino in Europa senza diritti oggi che bambino è? È un bambino che vede un futuro assolutamente nero, anzi che non riesce a vederlo. Io ho conosciuto dei ragazzi nati in Italia, da genitori anch'essi nati in Italia, che avevano delle disabilità e che fino ai 16 anni di età non si sono potuti curare pienamente perché non hanno mai avuto un permesso di soggiorno. Ho conosciuto bambini nell'est Europa che non sono andati a scuola mai perché nessuno riconosceva il loro diritto ad esistere. E voi potete immaginare quanto è difficile sviluppare un senso di appartenenza, una proiezione del sé nel futuro quando tutti quelli che sono diritti elementari ti vengono tolti. E sicuramente i flussi migratori possono contribuire fortemente ad aumentare il problema della politica, che, come ricordiamo, è l'assenza di cittadinanza, ma la dissoluzione dell'URSS ha pesato enormemente nell'Europa dell'Est in termini di politica, la dissoluzione dell'ex Jugoslavia ha pesato ancora di più per quello che riguarda il nostro paese, ma pesa moltissimo anche per esempio la crisi siriana. Vogliamo ricordare che la legislazione sulla cittadinanza di alcuni paesi arabi e sicuramente della Siria è molto discriminatoria. Per esempio, un bambino nato da una donna sola fuori dallo Stato siriano non può essere riconosciuto dalla propria madre, non gli può essere trasmessa la cittadinanza. Vogliamo pensare a quanti uomini sono morti nel mare per venire in Europa e quante donne purtroppo hanno dovuto dare alla luce i loro bambini senza avere più i loro compagni a fianco, e questo ci fa rendere conto di quanto le crisi nel mondo si rispecchino poi nei diritti fondamentali delle persone e quanto a questi ne vengano tolte. Carlini, ma in questo momento l'Europa dà risposte diverse a seconda delle varie nazioni, ci sono legislazioni che prevedono questa cittadinanza, altre che invece non la prevedono? Assolutamente sì, purtroppo l'Europa ha degli standard differenti in termini di possibilità. Ci sono 20 stati che l'ENS, che è questa rete europea, ha giudicato sufficientemente buoni e sufficientemente garantisti, altri 20 che sono moderatamente garantisti, e ci sono 4-5 stati a livello europeo che non danno alcun diritto. L'Italia, per esempio, è uno dei pochi paesi al mondo che prevede delle procedure per riconoscere la politia, però nonostante siamo fra quei paesi che potrebbero essere considerati come i buoni, abbiamo delle procedure che sono assolutamente farraginose e quasi impossibili da accedere. Per esempio, in Italia al momento una persona POID può essere riconosciuta come tale se segue una procedura o amministrativa o giudiziaria. La procedura amministrativa prevede però che la persona presenti per poter richiedere la politia dei documenti, un certificato di residenza, così come dei permessi di soggiorno. E voi capite che una persona che non ha cittadinanza non potrà avere nessun permesso di soggiorno, non potrà avere nessun certificato di residenza. L'altra ipotesi per diventare apolide riconosciuto formalmente in Italia è quella di poter fare un processo giudiziario. Voi vi rendete conto che una pratica giudiziaria è una pratica dispendiosa, è una pratica che molte persone in condizioni di apolidia non si possono assolutamente permettere. E per quanto riguarda i bambini, l'Italia è vero che prevede nella sua legislazione sulla cittadinanza che bambini nati da apolidi siano riconosciuti cittadini italiani. Il problema è che gli apolidi che lo Stato italiano riconosce sono solamente quelli che hanno un bel pezzetto di carta con scritto apolide formalmente riconosciuto. E se la legge che vi dicevo prima è quella che prevede che tu hai un permesso di soggiorno e che ti possa pagare un avvocato, voi capite benissimo che ci sono 15.000 apolidi circa in Italia che non avranno diritti né per loro né per i loro figli. Insomma, quindi questa è la burocrazia, anche questa, insomma, sicuramente è una delle... rientra tra le finalità di questa petizione, per avere una risposta unitaria e per avere una risposta che sia anche efficace e reale. www.cirlinetaonlus.org è il sito del Consiglio Italiano per i Rifugiati, oppure il sito del network europeo che è statelessness.eu. Grazie davvero Carlini, sicuramente ci ritroveremo qui per capire anche se questa risposta arriverà e in che termini. Buon sabato. Buon sabato anche a tutti voi e grazie a voi. I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Grumble and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, It looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. Un seminario internazionale sulla favola europea è quello che è stato promosso a Seravezza, siamo in provincia di Lucca, ed è stato promosso dal CISESG, che è il Centro Internazionale di Studi Europei, Sirio Giannini. La favola quindi al centro, la favola come linguaggio comune, la favola come linguaggio di contaminazione culturale. Ne parliamo con Daniela Marcheschi dell'Università di Lisbona e direttore scientifico del centro. Buon sabato, Marcheschi. Buon sabato a lei, buongiorno. Allora, come mai la favola per raccontare l'Europa? Perché se noi guardiamo alla storia, notiamo una complessità di esperienze che non sempre vengono, come dire, messe a fuoco, anche se sono ben conosciute, ma non sempre vengono messe a fuoco nel loro essere delle grandi tradizioni comuni alle più diverse letterature europee. E questa è stata un po' l'idea di lavorare mettendo a confronto studiosi inglesi, francesi, italiani, portoghesi e così via, ma anche polacchi, proprio per vedere e studiare come la favola si articola, come si connette, si pone in relazione con la fiaba, con quella che si chiama la novella, con il mondo classico, con la favola mitologica e tante altre declinazioni del genere. Ma la favola ha aspetti anche o ancora contemporanei, o studiare le favole significa unicamente studiare il nostro passato, no? Il nostro vissuto? No, anzi, ha una bellissima e straordinaria valenza anche per il presente. A questo proposito vorrei proprio ricordare l'intervento del professor Peter Merchant, che ha studiato, ha presentato Der Tunnel di Friedrich Dürrenmatt, un testo straordinario, terribile ma anche bello, ambientato in una carrozza della metropolitana che va in un tunnel che non finisce mai, va verso niente, ed è un modo per raccontare proprio uno spaccato della nostra storia terribile del Novecento e del destino di tragedie che ci ha riservato. Mm-hmm. Ci sono favole che veramente uniscono l'Europa? Ci sono favole che ritroviamo nelle varie nazioni, nelle varie culture? Ah, guardi, ce ne sono tante, ci sono, ad esempio, c'è stato un intervento della dottoressa Pascale che ha raccontato della sirena di Varsavia, che è una narrazione tra favola mitologica, leggenda e fiaba, in cui si racconta della sirena che viveva nelle acque della Vistola e che è una specie di mito fondativo della città di Varsavia, ripensato nella letteratura polacca a partire dall'Ottocento. Ecco, la sirena come simbolo di rinascita, simbolo eterno di vita, che si trova nelle vicende omeriche di Ulisse in particolare, e poi nella letteratura e nella storia contemporanea. Ma ci sono anche i miti, quelli che vengono chiamati miti ladini, le favole mitologiche non solo del mondo che si esprime in ladino, in verità ormai pochi parlanti, sì. Però sono i grandi miti dolomitici e sono straordinari, si raccontano appunto storie che riguardano il rapporto con la terra, con la luna, con le cose, con le esperienze di vita, d'amore e di morte, collegate alle grandi immagini, ai grandi simboli anche antropologici. Grazie davvero, questo è il seminario internazionale sulla favola europea, ci piace questa contaminazione con la cultura, anche con le culture altre, no? Con le culture magari meno narrate, qui di narrazione si parla. Grazie davvero a Daniela Marcheschi. Prego. Complimenti per l'ottimo lavoro, buona e buon sabato. Grazie a lei. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con l'altra... Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... L'altra Europa. I've been getting used to waking up with you. I've been getting used to waking up here. Anywhere I go, there you are. Anywhere I go, there you are. There you are. There you are. Everything is fine. Sensibilizzare i cittadini circa il rischio alluvionale, favorendo la crescita di una cultura dell'anticipazione e la prevenzione di questi fenomeni, fenomeni che non si possono annullare, che non si possono cancellare, si possono però ridurre e prevenire. Questo è il cuore di Life Franca, un progetto europeo che vede tra i partner le università di Padova e Trento, il servizio bacini montani della provincia di Trento, l'autorità di bacino del fiume Adige, l'azienda Trilogis e il Museo delle Scienze di Trento. E per capire di cosa si tratta abbiamo invitato Claudia Lauro, geologa e mediatrice culturale presso appunto il Muse. Buon sabato Claudia, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sappiamo bene quelli che sono i rischi legati al territorio, voi nella presentazione siete partiti citando i 50 anni da quella notte, da quel 4 novembre quando l'Arno ruppe gli argini nel 1966, ma non bisogna andare tanto in là per capire quelli che sono i rischi legati alle alluvioni, ai dissesti legati alla natura, e insomma l'abbiamo visto in queste settimane. Che cos'è Life Franca? E allora, Life Franca è appunto un progetto finanziato dalla comunità europea che promuove proprio la comunicazione del rischio alluvionale e in particolare l'applicazione delle tecniche di anticipazione agli eventi calamitosi, ed è focalizzato sostanzialmente in area alpina. E l'obiettivo principale è quindi cercare di far crescere una cultura dell'anticipazione e della prevenzione tra i cittadini, ma non solo tra i cittadini, anche tra i tecnici, tra gli amministratori, tra i giornalisti, quindi una cultura della prevenzione dei fenomeni alluvionali al fine di preparare la popolazione per affrontare questo rischio, perché dobbiamo essere consapevoli che purtroppo la sicurezza totale non può essere garantita, cioè il cosiddetto rischio zero non esiste, per quanto diciamo le nostre tecnologie ormai ci permettano di fare grandi previsioni, per quanto le nostre opere di difesa garantiscano una certa sicurezza, però il rischio zero proprio non esiste. E quindi questo progetto mira, più che diciamo a fare ricerca in queste tematiche, mira proprio a cercare di comunicare alla popolazione questa tematica, cioè di far comprendere come dobbiamo essere consapevoli dei rischi dei territori in cui viviamo e soprattutto che dobbiamo imparare a conviverci. Certo, e quindi imparare... Esatto, quindi conoscenza dei rischi legati al territorio, prevenzione là dove è possibile di questi rischi per limitare anche i danni, però capacità di lettura dei fenomeni e capacità quindi anche di azione poi conseguente. Sì, certamente dobbiamo dobbiamo prima di tutto essere consapevoli, conoscerli e poi agire diciamo in modo preventivo. E diciamo alla base della prevenzione cosa c'è? Tutto il discorso della pianificazione territoriale, pianificazione territoriale però che non deve essere diciamo sentita solo in qualcosa che deve essere fatto dai nostri governanti, dai nostri amministratori. La pianificazione territoriale è anche qualcosa che devono fare in primis i cittadini, cioè dobbiamo avere la responsabilità sociale della prevenzione. Cioè, la prevenzione è di tutti e diciamo questo progetto mira a diffondere diciamo la cultura della prevenzione in senso molto ampio, quindi mira a cercare di passare da una cultura dell'emergenza a una cultura delle prevenzioni. Saranno fatti incontri, saranno fatte pubblicazioni, saranno fatti percorsi di formazione. Diciamo tutti i partner che lei prima ha nominato concorrono tutti insieme attraverso tutta una serie di attività e di azioni a questi obiettivi, per cui si parte da una prima fase in cui è stata, la stiamo facendo ora, un'analisi, una riorganizzazione di tutti i dati disponibili sul rischio alluvionale in Trentino, ma poi si amplierà. Attraverso tutti questi dati si cercherà di creare dei possibili scenari futuri, sì, con i quali coinvolgere la popolazione in focus group. E fondamentale saranno anche tutta una serie di corsi di aggiornamento, di formazione per professionisti, amministratori, giornalisti. Ovviamente non possiamo dimenticare tutto il mondo della scuola, quindi educazione e divulgazione attraverso laboratori educativi, escursione sul territorio, per i cittadini e il pubblico faremo incontri, mostre e così via. Una cosa fondamentale, un prodotto fondamentale a mio avviso del progetto è quello che è stato definito un geoportale sul rischio alluvionale. Questo sarà un sito, un portale che durerà anche dopo il progetto, quindi sarà proprio un prodotto diciamo che sì, insomma, è efficace, certo, rivolto sia ai cittadini sia ai tecnici, che darà qualunque informazione sulla situazione idrogeologica del territorio trentino attraverso tutti i dati che la provincia autonoma di Trento metterà a disposizione, esatto, quindi capacità di lettura e rielaborazione. Grazie per a Claudia Lauro, okay. Muse.it, il portale del Museo delle Scienze di Trento, per avere ulteriori informazioni. In bocca al lupo e buon lavoro. Questo è Life Franca. E con la presentazione di questo progetto europeo chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a Miriam Lucchetti e a Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Roberta Frisani oggi in assistenza tecnica. L'appuntamento come sempre è a sabato prossimo. L'altra Europa @radio24.it invece è l'indirizzo di posta elettronica se volete contattare direttamente la nostra redazione. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.